Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi lunedì 19 gennaio 2015, riparte come al solito dalle ore 20 alle 21, 451 intersezioni. Chiaramente un saluto da Elisio Scarpa, che conduce questa sera la trasmissione di 451 intersezioni. Prima di partire con il percorso sonoro che stasera abbiamo elaborato, intitolato Anomalie Jazz, che sarebbe un percorso sonoro legato a frammenti di linguaggio sonoro alterato dentro una sorta di nuovo jazz degli anni zero, ma questo è un punto interrogativo, perché è una sorta di percorso anche di ricerca dentro tutte le proposte nuove di questi ultimi 10-15 anni che possono rappresentare un nuovo linguaggio jazzistico degli anni zero. Dunque sentiremo anche progettualità e collettivi sonori che cercano di portare avanti un discorso sperimentale utilizzando dei linguaggi e delle modalità compositive assolutamente nuove che possono prefigurare il nuovo jazz degli anni zero. Ma prima di iniziare il nostro percorso è doveroso, come compagno e come compagno di 451, raccontarvi, se non lo sapete, quello che è successo ieri notte a Cremona, perché è una cosa che ci tocca da vicino, dato che noi sicuramente non abbiamo mai sottratto la radio e la nostra trasmissione radiofonica a quello che riguarda il contesto politico e il contesto anche militante dei compagni, perché è successo una cosa assolutamente gravissima, ancora e tuttora è una situazione molto grave. Si tratta di un assalto avvenuto da parte di 60-70 militanti fascisti di Casa Pound al centro sociale Dordoni di Cremona ieri notte, dopo la partita Cremonese-Mantova. Sembra che ci siano stati dei collegamenti con alcuni fascisti di Parma e Brescia che sono scesi a Cremona per organizzare e premeditare un assalto al centro sociale. Bene, questo assalto è avvenuto, c'erano pochi compagni dentro il centro sociale che è a due passi dallo stadio, ed è stato ferito molto gravemente con sprangate un compagno di 49 anni, Emilio, a cui ovviamente diamo la massima solidarietà e vicinanza, che è stato subito ricoverato in ospedale, testa spaccata, e sta rischiando veramente la vita, in questo momento in coma, con prognosi riservata, una situazione di una gravità incredibile. E stasera attualmente è in corso un corteo a Bologna, partito alle 6 con una sorta di presidio che, data la presenza assolutamente numerosa di moltissimi compagni e compagne a questo presidio, hanno poi deciso di fare un corteo. In questo momento si sta svolgendo appunto un corteo in contemporanea alla nostra trasmissione a Bologna. Vicinanza massima da parte mia, da parte di 451. Una situazione veramente incredibile, questa è la dimostrazione come questi covi di fascisti di Casa Pound siano altro che pericolosi. La cosa inquietante, oltretutto, ieri notte, che è anche oggi, poi i giornali mainstream, che io definisco ormai giornali di regime, quasi tutte tranne rarissime eccezioni, hanno praticamente raccontato questo fatto come una guerra tra bande, una sorta di guerra tra bande, tra gruppi di tifosi quasi, e cercando di sminuire le responsabilità, l'aggressione premeditata da parte dei fascisti. E questa è la dimostrazione di come questi elementi siano coperti da gran parte della stampa, da gran parte dei poteri forti di questo paese. È fondamentale rispondere, stanno rispondendo molte città e molti presidi in moltissime città, ed è stata già indetta una manifestazione nazionale a Cremona sabato prossimo proprio per questo fatto estremamente grave. La cosa che inquieta più di tutto è sicuramente la situazione gravissima in cui versa questo compagno Emilio di 49 anni che è stato appunto sprangato in testa da questi fascisti. Noi ovviamente non possiamo staccarci dal fatto di pronunciare, di dire qualcosa rispetto agli avvenimenti, e anche noi ovviamente utilizziamo lo spazio radiofonico per esprimere massima vicinanza e solidarietà a tutti i compagni di Cremona e tutti i compagni che sono continuamente sotto attacco, anche perché questi fatti erano già avvenuti in misura meno grave già in passato negli ultimi due anni sempre a Cremona da parte di questi squadristi di Casa Pound. Il problema esiste, il problema è anche molto serio tenendo conto di tutto quello che sta succedendo in Europa e in particolare in Italia. Un caro abbraccio veramente ad Emilio e a tutti i compagni di Cremona. Noi partiamo ovviamente dopo questa premessa, ovviamente se volete avere informazioni più dettagliate rispetto a quello che sta succedendo, alle condizioni anche di gravità di salute e la situazione di Emilio, il modo migliore è andare sul sito di Radio Onda d'Urto oppure anche su InfoOut, e per avere notizie rispetto al corteo di sabato prossimo a Cremona anche il sito ZIC di Bologna, che sicuramente comunicherà qualcosa rispetto all'organizzazione di questo viaggio da Bologna per coloro che volessero partecipare al corteo di Cremona. Noi partiamo con la puntata di stasera, anche se non è facile affrontare una trasmissione radiofonica dopo fatti così gravi, appunto puntata dedicata alle anomalie jazz, questo è il titolo, e apriamo subito con un'autrice che a livello sonoro sembra, almeno nel brano che abbiamo selezionato, non rappresentare un cambiamento così radicale rispetto al linguaggio jazzistico. Parliamo di Ingrid LaBrooke, saxofonista tedesca che però da anni ormai risiede a New York e spesso si sposta anche a Londra per partecipare a progetti musicali e a performance con altri musicisti inglesi, musicista che si è mossa sempre tra free jazz e improvvisazioni radicali, ma in questo album in particolare intitolato Anti-House, uscito nel 2010, più che dal punto di vista sonoro è la struttura del brano e del disco, degli altri brani del disco, e la struttura compositiva e concettuale di queste composizioni che sicuramente può dare l'impressione di un cambiamento nei linguaggi, nei canoni del jazz, anche quello più avanzato, d'avanguardia e sperimentale. C'è un fatto nuovo proprio sull'elemento concettuale e compositivo che si può denotare in questa composizione sicuramente affascinante. L'album si muove su questo tipo di orizzonte sonoro, come ascolterete nel brano che abbiamo estratto, e rappresenta un'idea appunto di un'anomalia jazz che potrebbe comunque rappresentare uno dei filoni, una delle diramazioni sonore che potrebbe prendere questo linguaggio sonoro legato alla black music, che ha tanto caratterizzato tante musiche, non soltanto quelle legate al jazz. Dunque iniziamo e apriamo il nostro percorso di stasera su Anomalie Jazz con Ingrid LaBrooke, Anti-House, album del 2010. Ovviamente, come dico al solito, buon ascolto. Thank you. e siamo rientrati in diretta dopo questo brano assolutamente difficile, quasi da carpire nella sua struttura, spannante per i momenti in cui non ti dà punti di riferimento, cambi continui sia dal punto di vista ritmico che dal punto di vista concettuale in questa composizione, che può sembrare, come dicevo precedentemente, all'inizio un po' dentro anche le sperimentazioni musicali legate al jazz di questi ultimi 30-40 anni, ma in realtà esce a livello appunto di composizione e a livello di concetto sonoro. E in questo senso abbiamo voluto interpretare dentro il progetto di Ingrid LaBrooke, Anti House, l'album del 2010, che poi oltretutto ha dato anche il titolo al progetto collettivo insieme ad altri musicisti, che si chiama proprio Ingrid LaBrooke Anti House come progetto collettivo, dà l'idea appunto di qualcosa che si muove nel territorio jazzistico negli anni zero. E continuando in questo percorso, ricercando quello che potrebbe rappresentare un nuovo linguaggio alterato del jazz degli anni zero, di questo nuovo millennio, andiamo a trovare un altro progetto intitolato Tim Flood Quartet, un album uscito nel 2012 intitolato Magmel, uscito per l'etichetta Null Records, che oltretutto si occupa anche di molti materiali elettronici e soprattutto di progetti legati anche all'elettroacustica. Un album unico, l'unico album uscito da questa formazione nata tra il 2011 e il 2012, costruita da Tim Flood, che è un bassista e il produttore anche dell'album, insieme a altri tre musicisti, ed è esattamente la batteria Gerald Cleaver, al pianoforte Jacob Sachs e al sax soprano, al flauto, al clarinetto basso Andrew Bishop, con la supervisione proprio a livello di post produzione e di registrazione di un autore che spesso ha attraversato sia 451 intersezioni che 451 frammenti sonori, Taylor Dupree, musicista della scena degli anni zero nella, diciamo, nell'universo della musica elettronica sperimentale, che si è inserito dentro questo progetto. Un progetto che si muove dentro un jazz estremamente distorto e quasi granulato, legato molto anche all'elettronica, dove i brani sembrano rappresentare un jazz anche manieristico, quasi collegato al bap anni 50 e 60, ma che poi prende delle vie assolutamente imprevedibili, diventa caotico e assurdista. Ma soprattutto la cosa interessante è la registrazione, una registrazione che sembra fatta in cantina, lontanissima, con dei riverberi fortissimi, sembra quasi di assistere a un live, ma in realtà è proprio la registrazione costruita appositamente, quasi a ricordare una registrazione fatta male, una registrazione quasi da bootleg, da registrazione abusiva, fatta in cantina, amatoriale, ma in realtà è proprio questo sporcare il suono a rendere assolutamente unico questo splendido lavoro. Magmel, ve lo ricordo ancora, uscito per la Null Records. E abbiamo proprio scelto un brano che può dare l'idea di questo album, Can't Stop With a Prayer, che dà appunto un'indicazione dell'album stesso e della sperimentazione che sembra fuoriuscire dai canoni, anche quelli più sperimentali, anche se sembra un scontro di parole, canoni e sperimentazione, ma in realtà esce anche dalle sperimentazioni più conosciute, dalle musiche d'avanguardia jazzistiche che conosciamo maggiormente. Un album veramente molto interessante, chissà mai che continuerà questo progetto di Tim Flood Quartet. Noi lo speriamo vivamente, perché l'album è sicuramente interessante. Ricorda oltretutto, per coloro che conoscono questo cofanetto assolutamente raro e difficile anche da reperire, un po' l'esperimentazione del progetto collettivo newyorkese, anzi di Los Angeles Free Music Society, dove appunto si intrecciano stili, linguaggi completamente differenti, che incrociano jazz, elettronica, musica dell'assurdo, suoni giocattolosi e anche molta wave e rock costruite e inserite dentro queste sonorità. Ecco, questo cofanetto ha questa caratteristica di registrare, di portare su un nastro, su disco e su CD dei suoni estremamente sporchi e lo-fi, no? Di bassa qualità, e in realtà è molto vicino Tim Flood Quartet a questo tipo di concezione, quasi underground è molto legata appunto a dimensione quasi di movimento nell'ambito musicale, anche se poi è molto difficile portare questo discorso di movimento politico dentro anche progettualità musicali, ma in realtà Free Music Society era un progetto anche di matrice fortemente politica. Andiamoci dunque a sentire Tin Flute Quartet, Magmel, il brano di apertura proprio dell'album. Buon ascolto. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato il progetto che avevamo presentato precedentemente di il grande personaggio e progetto di Tim Flood Quartet da Magmel 2012 al successivo progetto che è Tiger's Meal da Android Love Cry, uscito nel 2007. Progetto assolutamente super interessante, usiamo sto termine, nato nel 2003, ha fatto uscire solo due album, Tiger's Meal, proprio l'album omonimo, nel 2003, e poi l'album di cui abbiamo estratto una traccia, Android Love Cry, uscito nel 2007, sempre per la Family Vineyard. Progetto costituito da tre grandi musicisti: Rob Mazurek, oltretutto conosciuto almeno dagli ascoltatori di 451, facente parte del progetto di Chicago Underground, spesso è anche venuto dai nostri amici dell'area sismica locale di Rivaldino in Monte in provincia di Forlì, e anche Jason Robke e Dylan van der Schiff, musicisti che appunto hanno costituito questo progetto che si muove in una dimensione di post-bap jazzistico intrecciato con dimensioni estremamente legate alla musica elettronica, ma anche a una concezione compositiva estremamente eterea e astratta, come abbiamo ascoltato in questo brano assolutamente suggestivo, estremamente curato nei minimi dettagli dal punto di vista sonoro, dove queste trombe si intrecciavano dentro un tappeto costituito da percussioni che venivano trattate con il laptop in maniera assolutamente sublime da Mazurek per costruire appunto dei tappeti sonori ritmici assolutamente suggestivi, insieme anche a suoni elettronici e a tastiere che creavano un tappeto appunto in sottofondo a questa elaborazione sonora. Molto interessante l'intero album, lo ricordiamo, Android Love Cry, che si muove anche su dimensioni addirittura con accenni legati alla musica rock in una sua accezione più ampia, ma tutto l'album essere estremamente interessante per le sperimentazioni dentro un linguaggio jazzistico assolutamente alterato, ma anche estremamente originale e assolutamente nuovo negli anni zero. E da Tiger's Meal, che abbiamo appena ascoltato, mixato con Tim Flood Quartet, andiamo a trovare un progetto che spesso ha attraversato le trasmissioni di 451, un progetto che oltretutto ha dato anche la sigla per parecchi anni a 451 Frammenti Sonori. Ancora adesso la trasmissione, che ricordo è la trasmissione gemella di 451 Intersezioni, va in onda sempre su Radio Città Fujiko il mercoledì da mezzanotte alle 2, condotta sempre da Max Ma, che anche mercoledì prossimo sarà presente qua sulle frequenze di Radio Fujiko. Bene, appunto i Radian sono ancora presenti come sigla di 451 Frammenti Sonori. Radian, che ha fatto uscire diversi album negli anni zero, si sono mossi in una dimensione elettronica ma con un jazz sempre presente nelle ritmiche e nelle elaborazioni compositive. Un jazz elettronico che si sposta sempre su binari assolutamente nuovi, la ricerca e la sperimentazione sono praticamente le bussole dei lavori dei Radian, costituito da Martin Brandmeier alla batteria e alle manipolazioni elettroniche, John Norman al basso elettrico, Martin Stewart alle chitarre, all'upsteel e a vari elettronici. E appunto dei vari album che hanno prodotto i Radian dal 2000, dunque dagli anni zero fino ad oggi, andiamo a pescare non l'ultimissimo album che è stato costruito con Owl Gab, si intitola Radian vs. Our Gelb, uscito proprio alla fine del 2014, ma l'ultimo album uscito per la Thrill Jockey nel 2009, Chimeric, perché rappresenta sicuramente meglio l'idea di stasera di anomalie jazz, un linguaggio appunto alterato che si mixa spesso con linguaggi elettronici, linguaggi figli del digitale degli anni zero che viviamo tuttora. Andiamoci dunque a ascoltare questo estratto da Chimeric, uno splendido lavoro uscito per la Thrill Jockey nel 2009. Ovviamente buon ascolto. Thank you. E siamo ritornati in diretta dopo questo vero e proprio viaggio nel mondo sonoro dei Radian per avviarci verso la conclusione di questa puntata dedicata alle anomalie jazz. E dai Radian andiamo a trovare l'ultimo lavoro di stasera, l'ultimo progetto che può rappresentare, almeno nelle forme compositive, concettuali, un'idea nuova di jazz, un'anomalia jazz dentro gli anni zero. E andiamo a trovare due musicisti giapponesi. Il Giappone è terra di follia e di sperimentazioni assolutamente imprevedibili, spesso 451 si abbevera proprio dai progetti e dagli autori giapponesi per darsi un po' di pazzia, un po' di follia che spesso ci aiuta anche a vivere meglio. Si tratta di due autori, appunto, Uchihashi Katsuhisa e Yoshida Tatsuya. Uchihashi Katsuhisa è un chitarrista sperimentale che sulla scena della sperimentazione e dell'improvvisazione radicale già dagli anni 90, e Yoshida Tatsuya invece è un batterista nonché manipolatore elettronico assolutamente geniale che è emerso negli anni zero. Insieme hanno costruito questo album Improvisation Free, uscito nel 2009, che rappresenta molto bene l'idea avanguardistica e sperimentale di un nuovo linguaggio jazz, di un'anomalia assoluta nel jazz. Sentirete questo brano che ti dà un'idea di frammentarietà, quasi in alcuni momenti diventa quasi orgiastico e assolutamente caotico nella sua elaborazione, nel suo sviluppo, attraversando suoni e idea compositiva che può attraversare non solo il jazz ma anche l'elettronica, l'improvvisazione radicale, per arrivare anche a forme rock e industrial nell'idea proprio di distruzione sonora. Dunque preparatevi veramente a una traccia e a un flusso assolutamente caotico e imprevedibile. Ci andiamo ad ascoltare dunque questi due autori per chiudere il nostro percorso sonoro, poi ci risentiremo in voce per i saluti finali e ovviamente la messa in onda della sigla finale di 451 Intersezioni. Intanto preparatevi, dunque tenetevi alle sedie, i due autori giapponesi Katsuhisa e Tatsuya da Improvisation Free. Thank you. purtroppo abbiamo dovuto sfumare questo brano assolutamente assurdo di Uchigashi Katsuhisa e Yoshida Tatsuya, perché ormai il tempo è tiranno. Ovviamente 451 intersezioni vi aspetta per lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, e vi ricordo sempre la puntata di 451 frammenti sonori di mercoledì prossimo da mezzanotte alle 2, condotta da Max Macchia. Vi lasciamo dunque con Uchigashi Katsuhisa e Yoshida Tatsuya, anche se sono stati un po', diciamo, frenati nella loro corsa pazza agli ultimi proprio istanti, gli ultimi due minuti, ma l'abbiamo dovuti sfumare causa appunto limiti temporali. Io ovviamente vi auguro una buona nottata con i programmi di Radio Città Fujiko, e ovviamente vi ricordo, dato che è un evento abbastanza grave quello che è successo a Cremona ieri notte, appunto un compagno del centro sociale di Dordoni è stato aggredito insieme ovviamente agli altri compagni presenti nel centro sociale da questa settantina di neofascisti di Casa Pound, che ha letteralmente spaccato la testa con sprangate a questo compagno Emilio. Dunque un abbraccio forte e grande solidarietà da parte nostra nei confronti del centro sociale di Cremona e del compagno che ancora sta lottando tra la vita e la morte, essendo in coma, in un pomponesi assolutamente riservata ancora tuttora. E vi ricordo che sono state fatte vari presidi e manifestazioni, tra cui anche a Bologna, partita dalla zona universitaria, e credo ancora sarà finito, ancora in corso. Vi ricordo anche e soprattutto che sabato prossimo ci sarà una manifestazione per condannare l'atto di violenza da parte dei neofascisti a Cremona, proprio a Cremona. Sabato prossimo verrà fatta una manifestazione. Comunque, se volete avere altri aggiornamenti, sicuramente anche sul sito di Radio Città Fujiko, ma in particolare Radio Onda d'Urto di Brescia, che sta continuando a dare aggiornamenti rispetto alla situazione e ai prossimi avvenimenti. Vi saluto ovviamente e buon ascolto sempre con Radio Città Fujiko. Un saluto da Lisio Scarpa, buonanotte.